E allora, come vi annunciavamo, abbiamo un'altra corrispondenza dalla piazza. Buongiorno. Allora, ci dici quanti siete più o meno, se avete idea come sta andando, da dove vieni? E ci ho messo tantissimo, c'è veramente un fiume di gente. Adesso qua dovremmo essere a via Cavour, e io da qua non riesco a vedere la fine del corteo. C'è veramente un sacco di gente molto variegata come composizione del corteo. Ok, tu da dove sei venuto, da dove sei arrivato, quanti pullman, eccetera, eccetera? Allora, io sono sceso da Milano con i pullman di Sanprecario. Sanprecario ne organizzava 8 di pullman, però poi c'erano altre associazioni, centri sociali, quindi non lo so, ma penso una 15-20 pullman almeno a Milano. Perfetto, perfetto. Allora, se ti va, stiamo facendo ancora un giro, visto che il corteo ancora non è proprio nel vivo, stiamo facendo un giro per, insomma, capire un po' com'è la situazione. Se ti va, ti richiamiamo tra un poco, va bene? Benissimo, Va bene, ok. ciao, grazie mille. Ciao, ciao. Grazie mille. Allora, chiaramente è sempre un po' complicato perché in sottofondo inizia a esserci sempre più delirio, quindi parlare, le varie corrispondenze sono sempre un po' più deliranti. Comunque, come detto precedentemente, siete su transizionedifase.org in diretta dal Media Center di Indymedia. E un buon ascolto a tutte e a tutti. Qua il raffreddore avanza, mi pare.